tranquilli, tranquilli, non vi parlerò del problema della libertà di stampa e neanche della trasmissione televisiva in cui se n'è tanto discusso giovedì sera. L'avete seguito tutti e poi ne hanno già riferito in parecchi qui a Radio Popolare e altrove. Parlerò solo di una cosa che nessuno, salvo errore, mi sembra aver notato, di quella che è stata la vera chicca di quella serata. Una delle interviste preliminari, in cui un giovanotto ricciuto e ben vestito, che non so chi fosse, si diffondeva sui motivi per cui lui considerava sommamente fazioso il quotidiano La Repubblica. E come esempio di faziosità citava il modo con cui quel quotidiano aveva trattato il brutto episodio di Genova della domenica prima. Secondo lui, il quotidiano diretto da Scalfari aveva puntato il dito più sul fatto che il tifoso che aveva ammazzato era un milanista che sul fatto che era un ragazzo. La Repubblica era stato l'unico giornale che in 7-8 articoli aveva insistito a chiamarlo sempre un milanista. E alla domanda perplessa dell'intervistatrice che gli diceva ma era un milanista o no, rispondeva certo che era un milanista, ma la faziosità in questo consiste. È stato l'unico giornale che ha puntato l'indice sul fatto che fosse un tifoso del Milan, perché guarda caso Berlusconi, eccetera. Cioè ammetteva che certo c'era un morto di mezzo, ma era sicuro che quel morto, testuale, non è stato ucciso da un milanista, ma da un ragazzo che poi era anche milanista. Ecco, non so voi, ma io sospetto che la collocazione di quell'intervista in posizione preliminare fosse un po' maliziosa, come se i redattori di Rai 3, che avevano Scalfari come ospite in studio ed essi stessi erano stati attaccati duramente come esempio di faziosità anti-berlusconiana, avessero voluto mostrare un esempio di ragionamento ostile particolarmente a pera, no? Perché il tipo ricciuto, che già prima di entrare in argomento si era pronunciato esplicitamente a favore della censura, proponeva in pratica di modificare i resoconti dei fatti in nome della ragion politica. Cioè il suo ragionamento era più o meno: non bisogna parlare male di Berlusconi, quindi non bisogna dire che tra i sostenitori di una squadra da lui patrocinata c'è uno che ha commesso un omicidio. Come se quel poveraccio, perché di poveraccio sembra proprio che si tratti, no? Anche se questo naturalmente non assolve dalle sue responsabilità, come se quel poveraccio rappresentasse il modello tipico di tifoso del Milan ed essere tifoso del Milan comportasse la necessità di agire come lui. Noi sappiamo che le cose non stanno così. Persino io, che non nutro una gran simpatia per il gioco del calcio, vi confesso, e che tendo a pensare che episodi come quello di domenica non siano né degenerazioni né mostruosità che deturpano un corpo sano, ma proprio le ovvie conseguenze di come la pratica di quel gioco attualmente organizzata e come si manifesta nella nostra cultura, persino io sono in rapporti cordiali con non pochi milanisti che considero eccellenti persone e che non metterei mai in rapporto con risse accoltellamenti. Ma il tipo ricciuto, chiunque fosse, non diceva non facciamo di ogni erba un fascio, espressione che tra l'altro non credo gli piacesse, e non diceva neanche distinguiamo tra tifosi e tifosi, diceva non diciamo che era milanista, era solo un ragazzo che poi tra le altre cose era anche tifoso del Milan, ma questo è secondario. Ecco, io non so se Repubblica, che è un giornale della cui faziosità potrei addurre facilmente altre prove volendo, no? Non so se Repubblica avesse trattato quel brutto episodio con la malizia che il tipo ricciuto le imputava, probabilmente no. Ma non me ne importa molto. A me interessa molto di più il modo di ragionare di chi dice di qualcuno non era un milanista ma era un ragazzo che poi era anche milanista. Perché questa argomentazione, per ovvia e futile che possa sembrare, ha una caratteristica interessante, quella di poter essere applicata praticamente a tutto. Noi tutti, no? Noi tutti siamo definibili in tanti modi. Siamo qualcosa e poi qualcosa d'altro. Siamo esseri umani e giornalisti e calvi e magri. Basta mettersi d'accordo su quali sono le caratteristiche di ciascuno che di volta a volta ci interessano. E giocare con quelle definizioni, accettarne una e negarne un'altra, è proprio il metodo più sicuro per eliminare qualsiasi giudizio negativo o positivo, qualsiasi giudizio indesiderato, è la tecnica per assolvere chiunque da qualsiasi accusa. Non è stato lui perché era questo, ma perché era quest'altro, e quindi la prima categoria è salva. Sapete, le definizioni spesso sono legate al contesto. Per esempio, è ovvio che riferendo di scontri tra sostenitori di due squadre di calcio io vi definisca come si definiscono loro, d'altronde con gli aggettivi di ciascuno che di volta a volta ci interessano. E giocare con quelle definizioni, accettarne una e negarne un'altra, è proprio il metodo più sicuro per eliminare qualsiasi giudizio negativo o positivo, qualsiasi giudizio indesiderato. È la tecnica per assolvere chiunque da qualsiasi accusa. Non è stato lui perché era questo, ma perché era quest'altro, e quindi la prima categoria è salva. Sapete, le definizioni spesso sono legate al contesto. Per esempio, è ovvio che riferendo di scontri tra sostenitori di due squadre di calcio io vi definisca come si definiscono loro, d'altronde con gli aggettivi che richiamano il nome delle loro squadre. Ma certe volte al contesto legati non sono. Nessuno può costringermi a definire parlamentari soltanto i protagonisti di un dibattito in Parlamento. Se per fare un esempio a caso uno di loro il giorno dopo schiaffeggia una signora in un luogo pubblico, è successo anni fa, io sarò ben libero di scrivere che un parlamentare ha schiaffeggiato una signora, senza essere accusato di voler sostenere che questa è la pratica costante di tutti gli eletti del popolo e di tutti i futuri presidenti della Repubblica, e di nutrire quindi tendenze antiparlamentari e aspirare alla dittatura. Tutti noi possiamo parlare, non lo so, del comportamento degli israeliani nei territori occupati senza intenzione di fare dell'antisemitismo, delle malefatte di un uomo di colore senza implicazioni razziste, di questa o quella sciocchezza fatta o detta da un uomo o da una donna senza sfumature sessiste. Possiamo farlo perché siamo consapevoli della parzialità, della non esaustività delle definizioni che usiamo, della loro intima contraddittorietà. Ma sappiamo anche che non possiamo fare a meno di usarle, a rischio di negare a coloro a cui ci riferiamo la loro identità, di annegare la loro individualità, che come la nostra è contraddittoria, non ci si scappa, in una specie di confusione indistinta, anche se, come si dice adesso, politicamente corretta. Ma questo possiamo farlo noi. Quelli come il signore ben vestito e ricciuto, evidentemente no. Loro ragionano esclusivamente per categorie, non hanno interesse per l'identità individuale, credono che tutti siano come loro e si liberano delle contraddizioni con la censura, che è il modo preferito da sempre dai fascisti, anzi da tutti i signori per bene che poi sono anche fascisti.